Rassegna Stampa Europa. Buongiorno, buon sabato da Giulia Crivelli. Scusate un po' la voce, è uno strascico di influenza che insomma spero si spenga con la primavera che finalmente è arrivata. E come immaginerete anche questa settimana tantissime le notizie che vengono dalla Grecia, tante le analisi sui giornali europei, come del resto sono state tante le analisi sui giornali italiani, anche se forse oscurate dalle vicende che sono accadute in Tunisia e anche a tutte le nostre vicende politiche italiane. Ma vediamo allora Financial Times, che proprio ieri venerdì ha pubblicato un articolo in cui si spiega che la Banca Centrale Europea sta valutando se vietare in maniera a questo punto drastica alle banche della Grecia di rilevare ulteriori titoli di Stato nazionali a breve scadenza. La spiegazione è che una decisione in questo senso farebbe seguito alla raccomandazione cui finora si è limitata l'istituzione e metterebbe un altro po' di pressione su Atene, che è già a corto di liquidità. C'è da dire che esattamente due giorni prima, mercoledì, sempre Financial Times aveva lanciato un altro piccolo allarme spiegando, grazie a informazioni raccolte presso banchieri greci, che nella sola giornata di mercoledì 18 si era verificato un flusso in uscita di depositi bancari greci compreso, pensate, tra i 300 e i 400 milioni di euro. Questo del drenaggio di denaro da parte dei greci dalle loro banche è una cosa di cui abbiamo parlato nelle settimane scorse. Naturalmente è una somma altissima, addirittura Financial Times ha scritto che è la somma più alta dal mese scorso, quando lo scontro tra il governo Siriza e i creditori internazionali ha innescato timori su un eventuale blocco dei capitali e quindi questa corsa dei risparmiatori, anche i piccoli risparmiatori, a ritenere il denaro. Ma vediamo di ampliare un pochino lo scenario, perché come sappiamo la crisi greca è secondo molti stato il grande sintomo di quello che non funziona nell'Unione Europea, che non ha funzionato nell'integrazione soprattutto economica dell'Unione Europea. E allora il Guardian ha pubblicato un bello e molto lungo articolo di Timothy Ash proprio su questo tema, intitolato Integrazione economica europea, la deriva di un continente. Sapete che il Guardian è il quotidiano con il sito in assoluto più visitato in lingua inglese, anche più dei siti americani, è molto seguito, e quindi questo articolo di Timothy Garton Ash, se lo volete vedere online in inglese sul sito del Guardian, che è tutto libero, oppure tradotto in italiano sul sito presseurope.eu, ha anche raccolto molti commenti da parte dei lettori. In sostanza lui scrive: una valuta comune non accompagnata da un'unione politica o fiscale ha lasciato l'Europa a rischio di scissione. L'attuale crisi della zona euro ha ampliato maggiormente la spaccatura tra un nord ancora prospero e un sud sommerso dai debiti, e ha messo gli interessi democratici nazionali in rotta di collisione con la leadership dell'UE. E aggiungo io, naturalmente, di questo abbiamo avuto tutti i segnali nelle ultime elezioni politiche, che sono state spesso dei messaggi mandati ai leader con un grande aumento della forza dei partiti, diciamo così, anti-europeisti o addirittura eurofobici in alcuni casi. Garton Ash non pensa che ci sia una spaccatura vera imminente, anzi pensa che a questo punto non sia possibile, però dice: tenuto conto dei risultati straordinari ottenuti nei 70 anni trascorsi dal 1945, cioè dalla fine dell'ultimo grande conflitto che ha coinvolto tutta l'Europa, e dei ricordi e delle speranze tuttora riposte nel progetto europeo, nel nostro continente continua comunque a esserci un certo sfacelo e le sofferenze, dice con un certo, diciamo, pessimismo della ragione Timothy Ash, le sofferenze naturalmente saranno più acute a sud. E questo squilibrio, sottolinea Garton Ash, facendo anche l'esempio di altri paesi come gli Stati Uniti, in cui in certi momenti la California, per esempio, era addirittura troppo forte come economia. Ecco, questi squilibri regionali all'interno di una singola area economica non fanno bene a nessuno. Tra l'altro molto divertente la vignetta scelta per illustrare l'articolo di Timothy Garton Ash, che è il nostro simbolo dell'euro, che si sta un po' spezzettando, e su ciascun pezzettino c'è un omino che cerca comunque di raggiungere il suo amico, il suo compagno, il suo compagno di avventura politica dall'altra parte. A volte si riescono a unire queste mani, a volte no. Sempre in tema di ripresa economica, di tentativo di interpretare, dare una speranza al sogno dell'Unione Europea, che era quello, come diceva Garton Ash, sì di unione economica, però anche di unione economica solida, perché dietro c'era un'unione politica e fiscale. E allora su questo tema si è esercitato Innocenzo Cipolletta, che è un economista italiano, è stato storico collaboratore del Sole 24 Ore e anche presidente di Confindustria. Ha scritto un lungo articolo su un magazine che si chiama Utopia. Anche questo lo potete leggere grazie al preziosissimo contributo, come dico sempre, di presseurope.eu, questo sito che prende un po' il meglio, come cerchiamo di fare noi, degli argomenti, degli articoli, degli approfondimenti sui temi europei. Il titolo del suo intervento è Proposta per un modello di crescita europeo. Cipolletta ci ricorda che l'Unione Europea è il più vasto e complesso mercato interno al mondo. Abbiamo due grandi rivali, naturalmente, gli Stati Uniti e il gigante Cina. Però abbiamo una grande forza comunque, se messi tutti insieme. Se vogliamo sopravvivere, dice Cipolletta, dobbiamo trovare il potenziale di crescita necessario per rilanciare l'economia. Tra l'altro sapete che c'è questo piano che Cipolletta naturalmente approfondisce e ricorda, che si chiama 2020, che è un obiettivo appunto per il 2020, che tra l'altro pone una grande enfasi sulla componente manifatturiera, su cui, guarda caso, hanno puntato anche gli Stati Uniti e la Cina. Gli Stati Uniti hanno aumentato gli incentivi alla componente manifatturiera, un po' perché abbiamo visto quanti disastri può fare un sistema finanziario fuori controllo, o che cresce sì, ma poi genera anche delle bolle, confrontato invece con quello che è la solidità del settore manufatturiero, che produce, crea posti di lavoro veri, persone che vanno a lavorare. E quando si sente parlare di settori maturi, ecco, però questi settori maturi in realtà, secondo Cipolletta, se opportunamente incentivati anche a investire sulla ricerca e sviluppo, possono avere un grandissimo futuro e dare appunto il contributo a far ripartire la nostra Unione Europea. Conclude Cipolletta: l'Unione Europea o sarà un grosso mercato interno che trascinerà nella crescita il resto del mondo, o sarà la somma di tanti piccoli paesi che si faranno una guerra reciproca per mantenere qualche quota di mercato internazionale a scapito dei paesi emergenti. Questo sarebbe la fine dell'Europa unita. In Italia siamo così abituati a sentir parlare di fare squadra, di muoverci insieme, di superare gli interessi particolari, e questo è un problema che in realtà riguarda, secondo Cipolletta, in altri termini forse, anche l'Unione Europea. Ma veniamo a internazionale. In edicola da ieri la copertina in realtà è dedicata alla prostituzione, al mercato della prostituzione in Germania, che è stato completamente legalizzato, liberalizzato, lo è come nella maggior parte dei paesi, ma legalizzato con anche tutta una serie di obblighi fiscali per le operatrici del settore, operatrici e operatori del settore. E poi in realtà però si spiega che non ci sono solo vantaggi da una legalizzazione di questo tipo. Ma veniamo invece a quello che internazionale ha raccolto proprio sui temi dell'Europa. E allora, per esempio, dalla Frankfurter Rundschau viene citato un articolo che si chiama Le cause e gli effetti dell'euro debole. La svalutazione della moneta unica, sapete, è una cosa incredibile, che sarebbe sembrata impossibile fino a, diciamo, anche solo 6 mesi fa, cioè questo avvicinamento tra il dollaro e l'euro. E però adesso c'è, non dico che siamo alla parità, non dico che ci arriveremo, nessun economista sarebbe pronto a giurarvelo, però c'è sicuramente questa svalutazione molto forte. È un vantaggio naturalmente per le nostre aziende che esportano, però è uno svantaggio per le aziende americane che esportano. E poi c'è la componente del prezzo del petrolio. Insomma, l'analisi di Stephen Kaufmann su questo quotidiano, la Frankfurt Rundschau, inizia proprio così: i mercati finanziari sono in stato di ebbrezza, la politica monetaria della Banca Centrale Europea sta proiettando le borse verso picchi da record, i tassi di interesse sono più bassi che mai e l'euro continua a svalutarsi. Il motivo, naturalmente, è questo personaggio che abbiamo cominciato a conoscere, il quantitative easing, o come alcuni lo chiamano, il QE, prendendo semplicemente le iniziali. È un termine inventato negli Stati Uniti, che si potrebbe tradurre con alleggerimento quantitativo. Comunque, sostanzialmente, nella versione europea, un programma di acquisto di titoli della BCE che sta inondando di liquidità liquidità i mercati. Ecco, però appunto, come tutte le politiche monetarie, o come potremmo dire come tutte le politiche economiche, ha i suoi vantaggi e i suoi svantaggi, tant'è che per esempio sempre su Internazionale viene ripreso un articolo del Wall Street Journal intitolato "Tremano Londra e Washington", perché la svalutazione dell'Europa, si legge, è una fortuna per l'Europa, ma fa venire il mal di testa alla concorrenza statunitense. Un esempio è il colosso italiano degli occhiali, la Luxottica, il cui mercato principale è il Nord America. Nell'ultimo trimestre del 2014 le vendite nel Canada e negli Stati Uniti, fatte in dollari statunitensi, sono aumentate del 12%, rafforzando ulteriormente i profitti del gruppo, che sono calcolati in euro. Negli Stati Uniti invece soffrono le aziende che vendono soprattutto all'estero, come ad esempio, scrive Wall Street Journal, il gruppo dolciario Mondelez International, che realizza l'80% delle sue entrate in paesi con monete che non sono legate al dollaro. Era la nostra ultima segnalazione per oggi, magari settimana prossima avremo qualche segnale di ottimismo in più sulla soluzione tanto attesa della crisi tra Grecia e Banca Centrale Europea e istituzioni europee. Un buon sabato da Giulia Crivelli. Rassegna Stampa Europa, in collaborazione con Euronet Plus.